di la luce più non vedrà. Non rivedrà più Aida. Aida, dove sei tu? Passa tu almeno, vivere felice, e la mia sorte orrenda sempre ignorare. Qual gemi tu, una larva, una visione, o un amore che sta, el, Aida! Troppo sei bella.